Incontri. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel. Buona domenica, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano con queste note notissime. Iniziamo l'incontro di oggi con Roberto Tazzioli, presidente e amministratore delegato di Bombardier Transportation Italy. Buongiorno e buon pomeriggio, dottor Tazzioli. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Come mai le è venuto in mente Mrs. Robinson, una canzone di quando eravamo tutti più giovani? Sì, ma è molto difficile scegliere una sola canzone, no? Visto che appunto abbiamo qualche anno. Però alla fine ho premiato il senso del viaggio. È chiaro che questa canzone è anche molto legata al film Il Laureato, e quindi questa macchina che corre con questa canzone sottofondo, oltre al ritmo e alla musicalità con le chitarre di questa canzone. Mi piace molto la musica country americana. Sì, il ritmo è molto bello e il viaggio è molto bello. Lei vive nel viaggio, col viaggio, per il viaggio. Beh, perché sì. Spieghiamo a chi magari l'ha sentito solo così dalla lontana, Bombardier che cos'è? Allora, Bombardier è una bellissima storia industriale. Innanzitutto è un'azienda canadese, attualmente ha due attività principali: produrre aerei regionali, quindi non i grandi jet, ma aerei regionali, quindi 90-100 posti, business jet, quindi gli aerei per le aziende o i personaggi con molti milioni di dollari, e aerei anfibi, quelli di Canadair che spegne gli incendi, è un aereo di Bombardier. E questi sono prodotti in Canada? Canada e Nord America. E Nord America. Invece l'altra parte, che più o meno equivalente in termini di volumi, totalmente Bombardier fa 20 miliardi di euro divisi più o meno equamente tra le due divisioni, l'altra è la parte trasporto ferroviario, quindi tutti i tipi di treni, dalle locomotive, carrozze, tram, metropolitane, fino ai treni ad alta velocità. E questi vengono prodotti anche in Italia? Anche in Italia. Che sì. Struttura ha Bombardier in Italia? In Italia abbiamo circa un migliaio di dipendenti, suddivisi tra lo stabilimento produttivo di materie rotabili di treni che è a Vado Ligure, in provincia di Savona, che è un stabilimento storico del 1905, deriva, porta avanti diciamo l'eredità del Tecnomasio, Brown Boveri, e su Roma abbiamo 300 persone che operano nel segnalamento ferroviario, quindi le due diciamo stabilimenti produttivi sono uno per i treni materie rotabili a Vado Ligure al nord in Liguria e uno vicino a Roma per il segnalamento, che sono i sistemi che permettono al treno di andare in sicurezza, di definire il tracciato del treno nei suoi binari e di mandare a 300 all'ora un treno in sicurezza. Ecco, per farci capire che cosa produce Bombardier, per dire guarda, quello è un treno Bombardier. In Italia abbiamo una flotta di locomotive per il trasporto regionale, abbiamo ordine per 700 locomotive, quindi tutti i treni regionali la mattina, se guardate la locomotiva c'è scritto su davanti E464 e di lato c'è un cartellino nero con scritto Bombardier, quello è un nostro prodotto. Vedo sempre più, per esempio nei film televisivi, le riprese delle città, Roma, Milano, eccetera, molto spesso ci sono le nostre locomotive, perché ormai 700 è la flotta più importante in termini di numero a livello europeo. Quindi ecco, un'azienda che muove le persone, che muove le merci. Ma torniamo a Roberto Tazzioli, modenese di nascita. Modenese, sì. Fiorentino d'adozione. Ho sposato una fiorentina. Quindi una fiorentina, ma anche la fiorentina, mi sembra, dal profilo calcistico. Sì, assolutamente sì. Quindi è un'adozione voluta, sentita e partecipata. Lavora a Roma. Roma è, diciamo, è in giro per l'Italia e l'Europa, perché poi, facendo parte di un gruppo multinazionale, abbiamo diversi impegni anche all'estero e diciamo che sono molto spesso in viaggio, quindi è difficile che stia più di un paio di giorni nello stesso posto. Comunque ha sposato Firenze presto, perché è laureato a Firenze, sì, mi sembra, in ingegneria, quindi fin da piccolo lei voleva fare il viaggiatore o chi faceva viaggiare le persone? No, nel senso che io sono ingegnere ma idraulico, quindi, civile idraulico, quindi molto un ramo molto particolare e specializzato in difesa del territorio. Credo di aver fatto gli studi all'avanguardia per quel tempo, di fatto non ho trovato posto in questo specifico settore, se non la prima attività che ho seguito per un'impresa civile, la realizzazione dell'acquedotto, però è durato un anno e mezzo e poi dopo ho cambiato. E poi ha colto qualche opportunità sul fronte strettamente ferroviario? No, sono entrato, diciamo, la prima azienda dopo questa esperienza è stata Alcatel. Alcatel però sì, nel settore ferroviario, quindi dall'84 che sono in questo mondo. Quindi un mondo complesso, affascinante, continua innovazione. Ecco, l'innovazione, è possibile continuare a innovare? Ma allora, il settore dei treni chiaramente per definizione deve essere sicuro, un treno non può avere incidenti e quindi ci sono delle norme che sono molto rigide ed è molto difficile innovare. Però chiaramente da quando è entrata l'elettronica c'è stato un cambio generazionale sia sui treni sia sulla parte di segnalamento, quindi sistemi, diciamo, che proteggono poi il traffico del treno. Certamente siamo innovativi. Tenga conto che adesso stiamo realizzando per Trenitalia insieme ad Ansaldo Breda il nuovo treno, quello che sarà il futuro treno ad alta velocità. È un treno che andrà a 400 km all'ora, potrebbe andare senza macchinista con i sistemi, diciamo, di supporto e di segnalamento che ci sono, quindi è certo che c'è innovazione dentro. Certo, innovazione quindi che è anche sicurezza, comodità, velocità, messe insieme queste cose. Il treno resta uno strumento per viaggiare, resterà anche in futuro uno strumento per viaggiare? Assolutamente sì. È chiaro che ci sono treni e treni, quindi treni per le persone che tutte le mattine vanno a lavorare dall'Interland verso il centro della città, quale mezzo migliore del treno? Il problema è che molto spesso sono dei treni non puntuali, sporchi, brutti, e quindi noi spingiamo molto perché ci siano treni nuovi per rinnovare la flotta. E poi sull'alta velocità ormai è comprovato che distanza inferiore a 500 km vince il treno sull'aereo, no? L'ingegner Moretti, l'amministratore delegato di FS, parla sempre di metropolitana italiana quando parla della linea alta velocità. In realtà da Milano a Roma si va in meno di 3 ore, Firenze-Bologna in 37 minuti, Milano-Torino in un'ora o poco più, e quindi proprio è cambiato il sistema anche di vita, perché uno può vivere in una città e lavorare in un'altra, no? Certo. Roma-Napoli, quindi il treno. Firenze-Roma, come nel Firenze-Roma, suo caso. Certo. Ecco, com'è messa l'Italia nel confronto degli altri grandi paesi europei sotto il profilo proprio delle infrastrutture, delle attrezzature, della capacità di accogliere anche le novità innovative sul fronte appunto del trasporto ferroviario? Sappiamo che c'è l'alta velocità, ovviamente Milano-Roma, estesa anche a Torino e a Napoli, sembra un po' qualcosa di limitato rispetto a quello che c'è in altri paesi, è così? No, beh, diciamo che fatta eccezione per la Francia che quest'anno festeggia i 30 anni di alta velocità e quindi che ha una rete molto estesa, il TGV francese è famosissimo in tutto il mondo, l'Italia come sempre è partita molto presto perché non so se si ricorda, ma la Firenze-Roma, la prima linea, è partita la direttiva nel 75 addirittura. Poi dopo ci sono problemi, noi italiani siamo poco capaci a programmare, e quindi il programmare vuol dire sì progettare, realizzare, ma anche avere gli investimenti con continuità per realizzare. Quindi da 75 in cui è partita la direttissima, poi l'ultima linea ad alta velocità è stata inaugurata 2 anni fa, quindi, e le stazioni ad oggi ancora non sono, certo, ad alta velocità. Ecco, c'è chi dice che l'Italia giustamente è un paese complesso, fatto di colline e di montagne, in cui costruire una linea non è facile, però anche andare da Torino a Venezia non ci sono molte montagne, eppure l'alta velocità qualche difficoltà ce l'ha ad essere costruita. Ma io credo che il problema più grosso non sia tanto l'orografia, quindi le montagne o meno, che certamente ci sono, e quindi fare una galleria che attraversi l'Appennino è impegnativo, no? In termini. Il problema è che riuscire a mettere insieme tutti i centri decisionali. In Italia abbiamo un sistema di decisione che anche il comune di 2 abitanti può porre il veto. E quindi, perché quando parliamo di alta velocità tutti dicono costa tanto l'alta velocità italiana rispetto all'estero? Perché all'interno dell'alta velocità c'è, cioè, per esempio il comune che deve essere attraversato dalla linea pretende di avere l'asilo o la piscina pagata con i soldi dell'alta velocità. Ho fatto 2 esempi banali per dire poco, certo. Però in realtà... tutto questo comporta difficoltà di approvazione, tempi lunghi e aumento dei costi. Lavorare in Italia non è probabilmente facile, non è certamente facile. Incontri. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a Ancora sulle note di Mrs. Robinson, dal film Il Laureato, Simon e Garfunkel, anni 70, anni in cui l'Italia era ancora un po' nel miracolo economico, anzi forse viveva i primi anni della crisi. Ecco, continuiamo il nostro incontro con l'ingegner Roberto Tazzioli, presidente e amministratore delegato di Bombardier Transportation Italy, una delle grandi imprese multinazionali, specializzata, come dicevamo, da una parte nella costruzione di aerei, cosa che Bombardier fa soprattutto in Canada e Stati Uniti, e dall'altra soprattutto in Europa nella costruzione di tutto quanto serve per far viaggiare un treno partendo proprio dal treno. Ecco, come è cambiato un treno dagli anni 70 ad oggi, partendo dalla locomotiva? È molto diversa la locomotiva degli anni 2010 rispetto a quella di 40 anni fa? Assolutamente sì, nel senso, prima era tutta meccanica, quindi molto più pesante, pochissime niente elettronica. Adesso una locomotiva che è fatta con REC, la possibilità di gestire per esempio la diagnostica remota, cioè lei da remoto tramite elettronica riesce a controllare tutti i sistemi della locomotiva, quindi motori, carrelli eccetera, e prevenire i problemi. Difatti una delle attività importanti che sta sempre più prendendo piede è la manutenzione, il global service, che è sempre più demandata ai costruttori, perché diciamo le maestranze dell'operatore tradizionale non riesce a stare all'avanguardia coi tempi sull'elettronica. Quanti chilometri fa una locomotiva? 150.000 l'anno circa, e dura per 20 anni. Per 20 anni, quindi molto più di una milioni di chilometri può fare una locomotiva. Quindi ecco, lei diceva nella prima parte, in fondo l'Italia non è messa molto male sul fronte dei trasporti, ha delle linee di eccellenza come l'alta velocità, da altre linee. Però tenendo insieme la complessità del paese c'è ancora molto da fare, forse perché il treno unisca un po' questo paese che è lungo 1200 chilometri in fondo. Ma sì, prima dicevo che il grosso problema che attualmente vive il trasporto ferroviario è soprattutto il trasporto pubblico nelle città e il trasporto ferroviario regionale commuter, quindi dei pendolari, e man mano che si passa dal nord al centro al sud chiaramente la condizione peggiora, no? Come un po' in tutte le situazioni del nostro paese, dal nord verso il sud. Quello che manca molto è anche il fatto del trasporto pubblico, quindi mezzi pubblici efficienti che evitino di prendere le macchine, quindi con città che sono intasate dal traffico. Io su questo sono molto comunista, nel senso, se io fossi un sindaco della città chiuderei il centro storico al traffico. Non solo per vendere qualche treno in più. A prescindere dall'interesse personale, ma perché penso che se una città offre un sistema di trasporto pubblico efficiente, quindi con aria condizionata, con grandi vetrate, come sono i nuovi tram, le nuove metropolitane, sarebbe stupido uno che non scegliesse il mezzo pubblico rispetto al privato. Ecco, in un bilancio complessivo sarebbe una scelta che fa risparmiare, un costo incentivare il trasporto pubblico che però fa risparmiare. Lo chiamerei un investimento. Un investimento, certo. Un investimento che fa risparmiare su altri fronti però. Che fa risparmiare appunto sul fronte, oltre che della qualità della vita, che peraltro è fondamentale, sul fronte della battaglia contro l'inquinamento, certo. Sul fronte anche della stessa mobilità, renderebbe certo. Più facile la mobilità. E il costo degli incidenti, quindi quanto costa un incidente, quindi la struttura ospedaliera legata a questo e tutto. E anche sul fatto che l'Italia ha firmato il Trattato di Kyoto, quindi se non rispetta la riduzione del CO2, ogni anno paga delle penali, quindi invece di pagare milioni o miliardi di penali sarebbe meglio investirle. Sa qual è il problema? Che fare progetti di questa valenza, quindi un nuovo sistema di trasporto pubblico in una città, dura di più di 5 anni, che è il mandato di un sindaco, e quindi il sindaco, se entra all'inizio della propria legislatura, non vedrà finita l'opera e molto spesso quindi preferisce asfaltare una strada o fare il giardinetto perché ha l'impatto immediato. Non abbiamo tanto spirito statistico come italiani. Ecco, questo è un problema appunto poi della democrazia in senso complessivo, proprio perché la democrazia deve cercare il consenso, ma deve anche rispondere poi alle esigenze dei cittadini, e i cittadini dovrebbero essere abbastanza maturi da capire che certe scelte pagano se vengono fatte, anche se all'immediato possono sembrare non avere dei risultati o essere impopolari. Però ecco, per la capacità da parte dei politici di pensare a medio termine e da parte dei cittadini di apprezzare chi pensa a medio termine, dovrebbe essere un salto di qualità per la democrazia. Beh, ma a parte questa digressione un po' di filosofia politica, lavorare in Italia da parte di una multinazionale come voi, cosa può voler dire? Qual è quello che lei invidia ai responsabili delle Bombardier di altri paesi? Ma allora, innanzitutto devo dire che gli italiani sono percepiti molto bene, nel senso siamo persone ritenute grandi lavoratori, e non è così scontato che un italiano venga percepito così, e con fantasia, capaci di approcciare i problemi in maniera anche uscendo diciamo dagli schemi e quindi con una capacità imprenditoriale, cosa che per esempio non è nei tedeschi, no? I tedeschi sono molto organizzati, però se escono fuori dalla struttura dell'organizzazione si trovano in difficoltà, non avendo diciamo le procedure pronte per tipo lavorare. Cosa invidio ai miei colleghi? Di vivere in paesi, in alcuni paesi, i grandi paesi europei, tipo la Francia e la Germania, in cui c'è una programmazione economica, in cui c'è una politica industriale e quindi sanno che ci sono investimenti previsti, gli investimenti vengono mantenuti e i programmi vengono mantenuti nei tempi. Io ogni volta che devo fare budget o piani strategici che sono al respiro di 3 anni o 5 anni, ho sempre delle grandi difficoltà a definire con esattezza quando uscirà una determinata gara relativa a un certo treno e quasi sempre sbaglio i tempi. Fortunatamente diciamo abbiamo consolidato nel tempo una certa familiarità e conoscenza del paese, quindi sanno che le previsioni che facciamo sono chiaramente di larghi intenti e non così precise come invece sono in Germania o in Francia. C'è qualche difficoltà magari anche nel farsi pagare regolarmente da parte del, quando il committente è non un ente pubblico, perché una volta le ferrovie erano un ente pubblico, adesso è una società comunque pubblica. No, ferrovie paga regolarmente, il problema è i tempi di pagamento, cioè veniamo pagati a 90 giorni, il che è incomprensibile in paesi tipo Francia o Germania in cui si paga già 30 giorni tanto, no? Quindi... Beh, già 90 giorni però è un bel successo, perché ci sono certo, per esempio le aziende farmaceutiche o sanitarie che vengono pagate a un anno o quasi, insomma, quindi è già comunque una cosa, positiva, già una certezza. Certo. Ecco, sotto altri profili, sotto il profilo della, per esempio, della complessità delle gare, dei rapporti con la pubblica amministrazione, passi in avanti se ne possono fare. Assolutamente sì, nel senso noi abbiamo ancora una struttura contrattuale molto complessa, con clausole contrattuali che a volte sono a capestro, quindi a volte come gruppo internazionale noi abbiamo difficoltà a accettare clausole contrattuali che per esempio non pongano limite alle penali, quindi vinco una gara da 10 milioni di euro e non avendo limite alle penali posso perdere addirittura centinaia di milioni di euro per danni indiretti. Tenga conto che quando noi dobbiamo consegnare un treno, se ritardiamo di una settimana paghiamo milioni di euro, e se addirittura ci venissero addebitati, come contrattualmente potrebbe essere, i danni indotti, i passeggeri che hanno portato, le decisioni che hanno fatto, potremmo portare con un contratto di entità diciamo non molto rilevante, quindi 10 milioni di euro, alla rovina della società. No? Quindi piano piano siamo riusciti a far convincere il cliente che queste clausole dovevano essere migliorate, e ad oggi c'è una struttura contrattuale migliore. Quello che stiamo vedendo è che le modalità di pagamento, mentre prima, tenga conto che noi quando facciamo un treno, chiaramente la prima cosa che fa è l'ingegneria, quindi ha molte ore di ingegneria, dei corsi di ingegneria, poi compri materiali e poi inizia a fare il treno. Mentre prima venivano dati degli anticipi sui pagamenti, proprio per pagare questi costi iniziali sull'ingegneria, adesso sempre meno, cioè, ci sono questi anticipi e vengono sempre pagati alla consegna finale. Sì, certo. Quindi c'è un andamento del cash flow quasi sempre negativo. Anche perché poi sono consegne finali con assegni con 8, 9, 0. Quanto costa un treno, una locomotiva? Beh, una locomotiva va sui qualche milione di euro, dipende poi da quindi 4. Non 3, è una 4. Cosa da tutti. No. E un treno invece va 20, 30 milioni di euro. Ecco, ci avviamo un po' verso la conclusione. Vorrei anche dare qualche messaggio da parte del suo osservatorio un po' sull'economia. Siamo in una fase particolarmente complicata per gli effetti di una crisi che è iniziata negli Stati Uniti nel 2009, ma poi in Europa ha avuto i suoi effetti e stiamo ancora vivendo. Come vede il futuro dell'economia? Riusciremo a salvare l'euro, l'Europa, la crescita? Ma io sono ottimista per natura e quindi sono ottimista anche in questo senso. E certo ci vuole molta più coesione tra gli stati europei, quindi non andare avanti con politiche uno stato diverso dall'altro, e anche tra persone. Si parla sempre di patrimoniali. L'Italia credo rispetto alla Grecia è un paese che ha una ricchezza sua, e nonostante il debito pubblico sia estremamente rilevante, la ricchezza paese è 4 volte tanto superiore al debito pubblico. Certo. Quindi ci sono le risorse per uscire da questo. Bisogna bisognerebbe essere seri, finalmente una volta essere tutti seri e compartecipi. Poi se gli italiani si mettono insieme e hanno un obiettivo comune, siamo un grande paese e raggiungiamo grandi obiettivi. Ecco, questo bisogna avere anche a livello appunto di politica economica degli obiettivi a medio termine, degli obiettivi che diano un po' di fiducia. Forse queste manovre che nascono un po' con l'improvvisazione sotto la spinta dell'emergenza non sono un grande esempio di capacità anche tecnica politica. A prescindere dal quotidiano, che poi cambia e poi è sempre difficile criticare e parlare del quotidiano, ma in assoluto la mia esperienza mi porta a dire: se uno è una persona seria, anche se dice delle cose difficili e però dimostra con la propria serietà che sono raggiungibili e si impegna su questo, le persone lo riconoscono e quindi lo seguono. Ci vuole quindi serietà, perseveranza e un programma che non sia domattina, no? Certo, anche perché l'Italia ha una grande storia e sicuramente avrà un grande futuro. Possiamo dirlo. Ne sono convinto. Grazie a Roberto Tazzioli, presidente e amministratore delegato di Bombardier Transportation Italy. Ci ha dato una immagine di cosa vuol dire operare nel settore del trasporto, operare in Italia, con una nota di ottimismo. Se vogliamo, possiamo farcela, anzi, un primo passo nella direzione giusta l'abbiamo già fatto, speriamo anche dando un po' di ottimismo a quanti ci hanno ascoltato. Grazie a Regina Tazzioli, grazie a voi. Grazie a Pietro Lacorte in regia e a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento per questo programma è a domenica prossima, ma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Buona giornata.